ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Dopo che ci siamo scambiati un bacio, siamo stati aggrediti da 4 ragazzi e 2 ragazze verbalmente, e all'inizio hanno iniziato a seguirci. Siamo stati aggrediti prima io e un altro nostro amico che ha cercato di difenderci, e ci hanno lanciato a terra, tirato pugni in faccia. Mattias Fascina, padovano, e il fidanzato Marlon Landolfo, veneziano, sono stati prima insultati con offese omofobe dal gruppo di ragazzi e poi rincorsi e picchiati. Aggredito anche un terzo amico che era giunto in loro aiuto e che ha riportato un taglio alla testa, visto che uno degli aggressori gli ha rotto un bicchiere. Sull'episodio stanno indagando sia i carabinieri che la Digos, che hanno già acquisito i filmati delle telecamere. L'aggressione infatti è avvenuta in un luogo centralissimo della città, a pochi passi dal comune, tra il caffè Pedrocchi e Piazza delle Erbe. Qualcuno dirà che sono episodi isolati, qualcuno dirà che sono teppisti di paese, anche se Padova non è proprio un paese, anzi una città universitaria, una città che dovrebbe avere comunque una maggiore apertura di idee nei confronti di persone che per strada non nascondono il loro affetto, anche se sono 2 ragazzi. Si parlava, ma così se ne parlava, non se ne parla più stranamente, di un disegno di legge contro l'omotransfobia e la misoginia, il cosiddetto DDL Zan, dal nome del deputato del PD Alessandro Zan, che diciamo portava avanti questo disegno di legge. È un po' che non ne sento più parlare, non se ne sente più parlare, come se la cosa fosse stata dimenticata, peraltro era l'attenzione. Però devo dire che il tema comunque dell'omosessualità è presente nelle cronache, da una parte con episodi di aggressione anche molto cruenti, anche terribili, anche vigliacchi, e d'altra parte come condimento della TV generalista, in particolare dei reality show. Ora, dopo che dopo anni mi sento più libero che mai, ho voglia di vivere la mia vita con te come amica, come siamo sempre stati. E ne esiste un'altra, ti favola, ma l'ho vissuta da solo, e che tanti chiamano il segreto di Pulcinella. Il problema non è svelare il segreto, perché ormai è un segreto di Pulcinella, ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto. E ti dico l'ultima cosa: la verità scavalcherà ogni segnale di omertà. Posso venire? Posso andare? Ti voglio bene. Quello che probabilmente è un coup de théâtre pensato dagli autori, perché nulla accade per caso nel Grande Fratello VIP. La gestione e l'alchimia dei personaggi è stata accuratamente scelta. E devo dire che uno degli elementi di cui più è stato presente il pathos è stato Gabriel Garco, che ha letto una lettera alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco, confessando quello che lui stesso dice è un segreto di Pulcinella, la sua, diciamo, profonda natura omosessuale. Cioè, mi sono preso in giro, tutti per tanto tempo, te lo devo dire. Lo dice piangendo, comunque qualcosa che sta sentendo, difficilmente si possa immaginare che il livello di recitazione arriva da inscenare una cosa del genere. Ha preso una decisione, ha reso pubblico una sua particolare personale, diciamo, maniera di vivere l'affettività. Non c'è nulla di strano, fa un po' pensare che diventi elemento scenografico in una trasmissione cialtrona come Grande Fratello VIP, ma però ci sta pure, in fondo è una trasmissione popolare, è anche giusto che un attore che per tanti anni ha dovuto fare la parte del gran bello sciupa femmine fidanzato con bellissime donne, fra cui anche Eva Grimaldi, che naturalmente poi anche lei si è sposata con una donna, ha spiegato cosa c'è dietro tutta questa impalcatura. Qualcosa di noto, tanti personaggi del cinema, dello spettacolo, ricordate il famoso caso di Rock Hudson, hanno dovuto tutta la vita simulare di essere quello che non sono, perché l'obbligo di essere personaggi del cinema, dello spettacolo, questo imponeva. Ma è ancora così necessario oggi? Ancora serve che una persona debba simulare? Questa è una domanda che mi faccio, se in un paese che si dichiara moderno e civile occorra che poi esista questa duplice lettura, questo duplice peso. Sì, perché poi guardate che non è che è rimasta così nel nulla il coming out di Garco, figuriamoci, dentro il Grande Fratello l'hanno commentato come commentano degli amici scanzonati e lievemente crudeli un momento difficile, un loro amico che ha riso sui tacchi a spillo, la contessa De Blanca ha detto ma tanto sono tutti diventati così, pronunciando una parola che è offensiva detta in quell'accezione. Nella sua biografia personale ci può anche stare che lei ha annullato la sacra rota un suo matrimonio perché ha trovato il marito a letto con un amico di famiglia, quindi potrebbe anche averci un po' di retroveleno personale. Sta di fatto che però Mario Adinolfi, per far parlare di sé naturalmente, ha sputato su questa dichiarazione dicendo beh, l'ha fatto apposta, si è affiliato alla cosca LGBT perché conviene sempre, e questo è un po' grave. Uno può esprimere il suo parere, ma è un po' grave che in tutto questo però accadano episodi di violenza, di sopraffazione, di discriminazione, e ci sia questo grande chiacchiericcio comunque nella TV più leggera, più popolare, come se parlarne in questa maniera da compagni di collegio o compagni di seminario poi renda moderno l'accettare quello che è un tema che in realtà non viene istituzionalmente accettato nella maniera giusta. Perché? Perché poi accadono fatti come quello di Caivano. È morta mentre era a bordo del motorino insieme al compagno, un ragazzo trans, nato di sesso femminile ma che ora si fa chiamare Ciro. La coppia, che aveva una relazione da 2 anni, è stata speronata dal fratello di lei, che non accettava la loro unione. Non volevo ucciderla, volevo darle una lezione, avrebbe detto Michele Gaglione, 30 anni, in cella con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della sorella Maria Paola, che da poco aveva compiuto 18 anni. La famiglia nega con forza che il figlio abbia speronato la sorella. È stato un incidente, voleva solo convincerla a rientrare in casa, continua a ripetere. 800240024, vi ho messo sul piatto quello che secondo me è un problema sul quale chiederei a voi un supporto per darmi delle risposte. Perché in Italia se ne parla in maniera così provinciale, così antica, così vecchia? Il problema diventa oggetto di battibecco di due soubrette in disarmo. La Cuccarini e la Parisi si fanno portavoce di due istanze opposte. La Parisi dice la Cuccarini omofoba, la Cuccarini dice non sono omofoba ma sono contro l'omofobia per gli omofobi, non ho ben capito la questione. Dietro questo fatto, che un paese civile dovrebbe dare una tutela e una libertà di espressione senza pregiudizio, ma senza nemmeno risatine, toccate di gomito, senza nemmeno qualcuno si possa permettere che esista la cosca LGBT a persone che hanno desiderio di vivere pubblicamente anche la loro affettività, la loro sessualità. Perché questo non accade? Perché una legge che comunque sembrava un passo avanti, che non faccia male a nessuno, non toglie nulla a nessuno, per riconoscere comunque il diritto di potersi affermare alle persone omosessuali, improvvisamente si è insabbiata, non se ne parla più e non se ne dice più nulla, se non che era una legge liberticida che impediva alle persone di poter esprimersi liberamente, come prevede la Costituzione, sul fatto che a qualcuno non sta bene, che esistano altre coppie, altre forme di matrimonio, di affetto, se non quella fra un uomo e una donna. Simone Alliva, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori. Ecco, chiedo il tuo aiuto. Alliva è un giornalista, collabora con l'Espresso, è autore di un libro che abbiamo presentato qualche mese fa, che è la prima inchiesta che indaga sulla violenza omotransfobica in Italia, Caccia all'Omo, viaggio nel paese dell'omofobia, Fandango Libri. Allora Simone, ci siamo sentiti noi prima dell'estate, E abbiamo fatto un punto su una legge che sembrava vicina a una sua soluzione. Mi dice innanzitutto, poi commentiamo gli episodi e l'humus generale del paese su questo tipo di punto di vista. Ma la legge a che punto è? Come mai non se ne parla più? Improvvisamente è qualcosa che non è più, mi sembra, nell'agenda. Non è più nell'agenda, esatto. È come se è stato tutto un po' sommerso, nonostante negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, tantissimi parlamentari, anche ministri, hanno chiesto un intervento su questi atti di omotransfobia, no? Tutti dicevano a un certo punto bisogna intervenire e sembrava di vivere in un altro pianeta, no? Perché per intervenire c'è una legge, insomma bisogna accelerare quell'iter. In realtà la legge al momento è in attesa di una calendarizzazione alla Camera. Sembrava fissata una data per il 13 ottobre, mercoledì scopriremo grazie alla Capigruppo se effettivamente inizierà a riprendere, a camminare alla Camera dal 13 ottobre o dal 20 ottobre, perché oggi ho scoperto che c'è anche questa data in ballo. E inizierà con un voto su due pregiudiziali di costituzionalità presentate da Fratelli d'Italia e Lega. Sono sostanzialmente delle pregiudiziali che dicono che non si può procedere con questo testo perché è incostituzionale. E qui c'è un piccolo problema. Ecco, perché dicono che è incostituzionale? Per capire il problema. Lega e Fratelli d'Italia dicono che la legge sull'omotransfobia è incostituzionale. Contro quale parte la nostra Costituzione cozzerebbe una legge che allarga una tutela anche a le persone discriminate, picchiate, che subiscono violenza in quanto persone omosessuali? Ce lo siamo detti qualche mese fa, lo spettro su questa legge che viene portata avanti e alimentato da questi gruppi parlamentari e anche da gruppi fuori dal Parlamento anti-LGBT è che questa sia una legge liberticida, cioè minaccia la libertà di espressione. Quindi incostituzionale, perché naturalmente la libertà di espressione è tutelata dalla nostra Costituzione. In realtà non è così, basta leggere il testo di legge per capire che non riguarda assolutamente la libertà di parola, la libertà di pensiero, la libertà di espressione, riguarda l'aggressione. Cioè quello che dicono, se passa questa legge, e l'ho visto perché in questi giorni qualcuno ha preso le difese della Cuccarini, giusto, ognuno può difendere la Cuccarini, sì, può fare il partito come Coppi e Bartali, non cambia niente, dicendo, vedete, se passa la legge la Cuccarini non potrà più dire di essere contraria, che ne so, all'utero in affitto, perché non so, sarà perseguitata in quanto omofoba. Non mi pare sia così. La legge è una fake news. Infatti uno può dire io sono fortemente contrario all'utero in affitto, non credo che la legge Zan mi farà arrestare per questo. Estremizza ancora di più, io potrò anche continuare a dire che le persone gay sono persone malate, cioè si potrà continuare a dire di tutto, quello che non si può fare, che non si dovrebbe fare è picchiare una persona in quanto omosessuale, esatto. Cioè, esatto. O non farla lavorare, perché o licenziarla, cose del genere. Ecco. Esatto. Questo è il limite che fa questa legge e che cerca, è la barriera che cerca di alzare questa legge, che poi è una questione di civiltà, se vogliamo. Poi c'è anche un'altra questione che riguarda la cultura, la formazione. Questa è una legge che prevede dei corsi di formazione, prevede dei centri antiviolenza e ho l'idea un pochino che anche su quello faranno il diavolo a quattro. Diciamo. Ecco, ti radicalizzo un'altra posizione. Ora io capisco, comprendo e non ho nulla da dire su una persona che si dice cattolico osservante e dice per la mia religione l'omosessualità è un disordine, qualcosa di peccaminoso, quindi io mai farò qualcosa del genere, mai approverò e renderò lecita questa cosa. La posizione religiosa uno può applicarla nella sua vita quanto vuole, ma non può per questo impedire agli altri di vivere la loro vita nella maniera più felice possibile. Quello che non mi è veramente molto, molto chiaro in questo passaggio è perché questo accanimento, che posso capire per una persona che lo fa in nome di una religione, per qualcosa che in realtà non nuocerebbe. Qual è la paura? La paura che sia una sorta di contagio, che una volta che passa la legge, come ci si può attaccare un virus, ci si attacchi e si diventi tutti omosessuali. Scusa che la radicalizzo, ma vorrei capire cosa c'è dietro questa paura. Beh, naturalmente sono diverse. C'è una questione culturale perché c'è quella paura, diciamo, di l'incubo di un mondo che non si riproduce, i fantasmi della passività del maschio, la paura trasformata in odio per ciò che viene percepito come diverso, no? Straniero, lo vediamo anche su altre minoranze. E poi l'aumento della visibilità omosessuale negli ultimi anni ha portato a qualcosa che spaventa chi non ha gli strumenti per comprendere questo orientamento sessuale, ma diciamo che è una questione culturale che noi abbiamo, no, dentro nel nostro DNA, no? Siamo una società patriarcale, una società cresce su questa cosa qui. E poi allo stesso tempo c'è una strategia che funziona, una strategia politica che funziona sull'attaccare, diciamo, sempre qualcun altro, distrarre da quelli che sono i problemi reali, la strategia di disumanizzare il prossimo, perché si è parlato tantissimo nell'ultimo periodo, anche adesso, di gender, di tutte questioni che in realtà non hanno aderenza con il reale, che però spaventano e portano consenso. Allora, fermo un attimo, ti devo interrompere perché devo dare la linea un momento. Abbiamo al telefono un ascoltatore, Pietro, che prego di attendere un istante, che forse ci può aiutare a capire meglio su cosa faccia corpo, prenda corpo questa paura che a un certo punto, se si allargano i recinti, diventerà come una grande invasione e il mondo si omosessualizzerà e questa sarà la fine dell'umanità, perché alla fine la sintesi è questa. Quando io leggo colleghi parlano di omosessualismo, che è un termine nuovo, non sa che vuol dire, come si dice socialismo o come si dice una dottrina politica, mi sembra difficile pensare che attraverso l'indottrinamento una persona possa mutare la propria attitudine affettiva e sessuale. Ci fermiamo un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Melog. Santità, la prima domanda che le vorrei fare è: che cosa lei pensa, che cosa le vorrebbe dire lei a un papà, a un padre, che il suo figlio gli dice che è omosessuale, che vuole andare a convivere con il suo... In quale età si manifesta questa inquietudine del figlio? È importante. Una cosa è quando si manifesta da bambino, che ci sono tante cose da fare con la psichiatria o per vedere come sono le cose. Un'altra cosa è quando si manifesta un po' dopo 20 anni o cosa del genere, no? 800 24 00 24. Ringrazio innanzitutto Pietro Lacorte, mi manda in onda da Milano, Fabrizio Intonti e Gloria Guerrera che sono a Roma, e Alessandro Chiappini che mi sta mandando in onda alle praterie del Wyoming con due amici dietro con un Winchester in mano. Detto questo, avete sentito, questa era un'intervista fatta dal Papa, trasmessa da Sat 2000. Stava in aereo, gli domandano che dire a un padre che il figlio dice: papà, sono omosessuale. Dice: beh, sai, se non è tanto grande, mandatelo dallo psichiatra. Questa è la posizione ufficiale della Chiesa, è una stortura rispetto al disegno della natura, e il Papa può anche dirlo, può pensarlo, fatti suoi, avrà già abbastanza di gatte da pelare su questo scabroso argomento tra i suoi vescovi, arcivescovi, preti, arcipreti, chierichetti, quindi probabilmente non sono fatti che ci riguardano. Ma quello che oggi noi invece vogliamo osservare è come sia difficile parlarne serenamente nel nostro paese, difficile al punto tale che c'è imbarazzo istituzionale nei confronti di una legge che allarga semplicemente una tutela anche alla categoria delle persone discriminate, colpite, picchiate, ammazzate, proprio per la chiara ammissione, palese ammissione di amare persone dello stesso sesso o di avere desiderio per persone dello stesso sesso, che è una cosa che non dovrebbe più destare scalpore o imbarazzo. Pietro, buongiorno. Buongiorno. Il suo punto di vista. Allora, il mio punto di vista è molto semplice. Mi sembra che le leggi che già esistono, ovviamente tutelino tranquillamente in tal senso, come il discorso del femminicidio. Se lei uccide ovviamente una donna, già c'era ovviamente la legge che stabiliva che ovviamente c'erano delle pene diciamo per queste persone, che con tutte le aggravanti dovute hanno voluto fare la legge sul femminicidio. È benissimo, perfetto, è passata. Ma che problema le dà lei che ci sia una legge sul femminicidio che venga descritto come reato specifico? Ma a me non mi dà nessun problema, guardi, lei sta parlando con una persona che è estremamente aperta e che io infatti come premessa le direi che queste persone, cioè sia lesbiche che gay, sono sempre esistiti nella storia, ritorniamo al tempo dei Romani, quindi assolutamente, però mi sembra che al tempo dei Romani o nei tempi passati non se ne parlasse in maniera così accanita come se ne parla adesso, cioè adesso noi con tutti i problemi che abbiamo, con tutta la situazione che ci abbiamo, con tutti i debiti che ci abbiamo, dobbiamo pensare a fare una legge sul femminicidio, poi sull'omofobia. La posso riflettere, Pietro, cioè, ma se avesse un figlio che le torna a casa e dice papà sono stato picchiato perché sono omosessuale, non si vorrebbe... Io denuncerei perfettamente la persona senza bisogno di avere una legge specifica, sicuramente quella persona per lesioni superati i 30 giorni andrebbe sotto processo tranquillamente, mi perdoni, ma non trova che sia faccio parlare. Vuoi capire cosa c'è dentro questa paura? Perché io trovo, da una posizione neutra, che un paese civile è giusto che stabilisca che la legge tuteli anche persone che sono sottoposte a discriminazione per la loro, per loro appalesare una loro condizione che diciamo nel sentire generale ancora desta imbarazzo. Sì, le faccio notare però. Che, allora a questo punto vorrebbe dire, allora, con quello che lei dice a questo punto allora la possiamo rigirare anche nei confronti degli eterosessuali, perché scusi tanto, se io ovviamente, ovviamente manifesto la mia eterosessualità facciamo una legge che ovviamente mi tuteli, non esiste. Lei sta parlando di quello che è considerato la norma, mi scusi. Nessuno discrimina per chi si comporta nella norma, la discriminazione per chi ha dei comportamenti che perché lei considera l'eterosessualità allora la normalità e anormale mi ovviamente mi sto scaldando perché giustamente lei dice la norma, allora è lei che stabilisce delle norme. Normali, la norma vuol dire un comportamento seguito dalla maggior parte delle persone di cui nessuno fa caso perché lo fanno tutti. Se tutti gli uomini avessero il cappello, nessuno si accorge degli uomini col cappello. Un uomo va in giro senza cappello, dice: ah, quello è senza cappello, va bastonato perché è senza cappello. Le faccio l'esempio banale, così usciamo dal tema. Ecco, io dovrei fare una legge e dire: no, si può andare anche senza cappello senza che nessuno ti bastoni per questo, visto che la maggior parte delle persone porta il cappello per ragioni proprie, non che esista la natura delle persone che debbano avere il cappello, però devo avere il diritto, se io voglio andare a testa scoperta, poter andare a testa scoperta. Vale per il comportamento sessuale, diciamo il comportamento più seguito, più diciamo applicato è quello che le persone di genere diverso, di sesso diverso si piacciono, si innamorino, siano attratte. Però esiste anche la possibilità in natura, se sono persone, sono attratte da persone del loro stesso sesso, di non poterlo fare serenamente. Se qualcuno li picchia, li discrimina, crea delle barriere a queste persone che debbano vergognarsi tanto a tenerlo nascosto, secondo me uno stato di civiltà, proprio perché non siamo più nell'impero romano, non siamo più nella barbarie, dice: bene, io Stato ti do tutti gli strumenti perché tu possa essere sereno. Se qualcuno viola questa tua serenità, io lo perseguo con una legge specifica che dice: questo non si può fare, si capisca che questo non si può fare, se no si continuerà a fare tranquillamente, serenamente, dicendo tanto è normale. Non è normale discriminare una persona. Pietro, Jacopo, buongiorno. Sì, non è normale. Mi rendo conto, Jacopo, mi scusi, che è un po' difficile perché è un argomento su cui, per quanto uno possa argomentare, c'è sorta, si sbatte contro un muro, non riesco a capire perché, e lo faccio con serenità, non porto nessuna bandiera. Vediamo se mi aiuta lei. Stiamo parlando di libertà. E stiamo parlando del fatto che una persona non deve essere picchiata perché è omosessuale, grassa, brutta. Una persona non deve essere picchiata perché è una persona. punto. Non occorre tirare fuori. Quindi anche lei è d'accordo che, diciamo, che una legge che non serve, una legge che non serve. Ma no, è che il problema è pericolosa. Qui stiamo vivendo, perché stiamo vivendo in un'epoca in cui una certa parte politica sta utilizzando degli strumenti molto precisi e fascisti per tentare di limitare la libertà di espressione. Cioè, ma è stato detto, scusi, abbiamo detto all'inizio della trasmissione che questa legge, lei può continuare a dire tutta la vita, secondo me è anormale essere omosessuale. Non ci credo, perché noi stiamo vivendo, stavo tentando sviluppare un ragionamento, un periodo fobofobico. Fobofobico? Cioè, fobofobico. Cioè paura della paura. Secca. Nel tentare di sopire i sentimenti negativi per legge è una follia, cioè se vogliono aggressivizzare la società vadano avanti su questa linea. Ma chi questo? Chi? Se vogliono chi? PD e compagnia cantante. Ah beh, lei ha fatto politica. Vabbè, Jacopo, siamo fuori. Sì, ho capito. La sua lettura è lecito pensarlo, pensi quello che vuole. Manuela, non ho argomenti per controbattere la colpa del PD. Manuela, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Il mio discorso è leggermente simile per quanto riguarda una persona, deve essere rispettata solo esclusivamente perché sia una persona, e questa è la cosa più importante in assoluto. Io farei una dinamica legata soprattutto alle donne. Io sono imprenditrice di 40 anni, per arrivare dove sono arrivata ancora oggi devo lottare continuamente, non sono una categoria protetta, non c'è nessuna legge che mi tutela, e non vorrei in nessun modo che si dovesse arrivare al punto di vista pseudo USA in cui solamente perché si è una categoria considerata protetta, ma non lo è perché i disabili sono una categoria protetta, magari si possono avere delle differenziazioni perché una persona è omosessuale o lesbio, o quello che sia, qualsiasi problema non è un problema. Sì, ma sintetizzi, riporti il problema sul tema, scusi, se no allarghiamo sempre, io tendo a stringere. Secondo lei una legge che tuteli diciamo, le persone omosessuali dal fatto che possono essere discriminate o anche aggredite per questo, di un inasprimento di pene se io ti aggredisco o ti insulto proprio perché sei omosessuale, secondo lei questa legge rimetterebbe in discussione tutti i principi di libertà? No, io credo che non sia corretto trattarli come una categoria protetta perché non lo sono, e forse la forma più grave di razzismo fare una legge apposita che li tuteli. Questo è il problema. E non è corretto tenerli. Vabbè, dal suo punto di vista. Vediamo se riesce Simone Alliva, che ci ha scritto un libro su questo, a aiutarmi. Simone Alliva, io onestamente non ho argomenti. Mi sembra la mia aspirazione sarebbe la leggerezza, vorrei che non ci fosse nemmeno il problema. Invece vedo un'animosità a parlare, un argomentare animoso, portando un domani mi porteranno anche in nome del diritto dell'uomo di autodeterminarsi il fatto che non debba esistere questa legge. Perché c'è questa forte resistenza, questo argomentare, devo dire ottuso, con argomenti ottusi, però ognuno, io ti posso dire la legge non ci deve essere perché mi metterebbe la mattina di cattivo umore e avrebbe lo stesso valore di quello che hanno detto questi signori. Vediamo se mi riesce a far capire. Ma sono interventi preziosi perché è il sentimento di un paese questo, no? Che manca di alcuni strumenti. Io ascoltavo prima qualcuno ha anche parlato di razzismo, ecco, siccome non si parla di razza, si parla appunto, questa parola è stata pronunciata tante volte, persone, si parla di orientamento sessuale, già qui c'è una piccola differenza. Poi bisogna ricordare o comunque far capire a chi non vuol capire che la furia omofobica si rivolge proprio contro quell'individuo o contro la sua differenza, allo scopo di annullarla, nel senso che è proprio contro il suo essere persona. E le persone LGBT, la comunità LGBT è purtroppo, o comunque questo è un dato di fatto, è una minoranza che è esposta particolarmente a questo tipo di odio. L'atto di bullismo. Allora, aspetta Simone, scusa, non voglio farti finire bene il discorso. Devo prendere ancora un minuto di pausa perché questo mi viene imposto. Poi lascio a te la parola nell'ultima parte della trasmissione. Tanto il sentire generale, abbiamo dato la prova, abbiamo preso 3 telefonate, le prime 3 che abbiamo preso sono arrivate. Il sentire è proprio questo, è un senso di fastidio. Perché questa cosa qui, con tanti problemi che abbiamo, anche questo problema. Ci fermiamo un istante. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta. Melog. Mi sta rispondendo. Stavo facendo parlare Simone Alliva, che è un giornalista dell'Espresso, che ha scritto un libro, Caccia all'Homo, Viaggio del paese dell'omofobia, che è un'inchiesta sulla violenza omotransfobica in Italia, che potrebbe portare una serie di esempi di cronaca, di fatti oggettivi in cui esiste un sentire generale negativo, oppositivo, con volontà di cancellazione in tutto ciò che mette in crisi l'equilibrio della certezza che il mondo sia sempre stato costituito in una certa maniera, che le cose debbano sempre andare avanti nella stessa maniera. Questa è una legge che fa semplicemente riferimento a una legge che già esiste, che è la cosiddetta legge Mancino, che prevede il carcere per chi in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi. Già c'è questa legge, è una legge che già esiste, la famosa legge Mancino. Il decreto legge Zan la vuole estendere ai reati di violenza basati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Siccome è emersa questa necessità da un'oggettiva attenzione alla realtà, semplicemente si estende una legge che esiste anche alla categoria delle persone discriminate per motivi sessuali, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere. Adesso vediamo se Simone Alliva riesce a farmi capire meglio. Il sentire generale è questo, Simone, non ci piove. È un paese che ha fatto un grosso passo indietro nella accettazione del fatto che possa esistere un mondo sereno in cui le persone possono serenamente esprimere anche i loro orientamenti sessuali. Questo mi sembra oggettivo. Purtroppo sì. Sì, è così, non si capisce che questa è una legge contro i crimini d'odio, perché i crimini d'odio non vengono compresi, questa è l'idea che mi sono fatto, no? Nel senso che il crimine d'odio è sempre verso una minoranza, una comunità, e indebolisce tutta la minoranza. Quando noi vediamo un ragazzino che viene massacrato per strada perché si teneva per mano col suo fidanzato, e questo indebolisce tutta la comunità. Questa legge interviene non solo da un punto di vista di aggravante legislativo penale, ma anche culturale, che è quello che serve a queste persone che non capiscono che l'atto di bullismo nei confronti di una ragazza lesbica non può ridursi a lesioni personali. Ma sei convinto che non capiscono, Simone? Che non capiscano o non ammettono dentro loro stessi che alla fine a loro dà fastidio quel comportamento, vorrebbero un mondo in cui questa cosa, ammesso che ci sia, visto che c'è dal tempo degli antichi romani, si facesse nascosta, come fanno una gran parte di persone naturalmente. Sì, a parte il fatto che un errore storico, gli antichi romani non la nascondevano, ecco, per rispondere al primo intervento, però poi c'è stato un passo indietro, ma questo è un tema troppo lungo. In realtà sì. Sì, ma il passato mica ha detto che debba essere una sorta di modello di civiltà. Noi ci civilizziamo, esatto, per cambiare i nostri comportamenti, che vuol dire è sempre stato così. Una volta davanti a San Pietro mettevano la gente sulla ruota e la facevano a pezzi, e fino diciamo a un secolo e mezzo fa sembrava normale che lo facessero. Sì, sì. Però proprio come hai detto tu, è queste parole sono in qualche modo una finestra, uno specchio. Chi si dice contrario perché insomma minaccia la nostra libertà o perché è un piano del PD, eccetera, c'è una paura di non volersi guardare dentro e non capire che in fondo le persone LGBT ci danno fastidio, no? La comunità gay ci dà fastidio perché c'è una libertà che spesso può scatenare qualcosa dentro di noi, perché poi dobbiamo distinguere. Ma scusa, non è che la paura profonda è che magari quello che dicevo all'inizio sia una sorta di contagio, e magari questa cosa mi contagia ai miei figli, contagia a me stesso, un domani mi scoprirò anch'io così, perché sai, adesso non vorrei fare cose sgradevoli, incitare a cose sgradevoli, il cosiddetto outing, che è un'operazione crudele di sbandierare e fare l'elenco di tutte le persone che hanno comportamenti del genere, però magari cominciare a capire che anche in questo fronte così deciso, così compatto, così coeso, ci sono molte persone che in realtà non hanno ben risolto la loro equazione personale, forse accennarlo non farebbe manco male, no? Esatto, ma questo è scientificamente dimostrato. Io ho parlato nel mio libro, parlo con Vittorio Lingiardi, che comunque è uno dei più grandi psichiatri che abbiamo in Italia, e lui spiega proprio questa cosa qui, ma c'è anche una questione di cultura omofobica, no? Che è disseminata di linguaggi, atteggiamenti, sguardi, queste barriere che vediamo che si alzano ogni volta quando si parla di persone LGBT. Adesso non è stato il caso, però immagino che un'altra posizione sarà: ma perché queste persone non lo possono fare a casa loro? Perché qualcuno prima ha detto io non manifesto la mia eterosessualità, ma come no? Cioè, nel senso, quando tu tieni per mano la tua compagna e sei un uomo, manifesti la tua eterosessualità. Nel senso, c'è proprio questo atteggiamento che non si riesce a comprendere. Il fatto posso dirti una cosa, dica... Simone, perché la sigla ci porta via, scusa, ma i tempi sono questi, ho cercato di fare il possibile per far capire e dare elementi. Mi rendo conto, perché la legge fatica ad andare avanti, se il sentore generale della nazione è questo, chi fa politica cerca consenso, deve in qualche maniera incrementare, assecondare questo stato d'animo che a me sinceramente fa molta paura. Alla prossima. Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.